gente parla dietro e dopo non si sa. E benvenuti nel mio viaggio con la verità. Salite tutti in fila su questa mia gondola. E vieni con me, qui con la doppia dose. Hey, benvenuti nel mio mondo. Hey, qui comincia un nuovo giorno. Hey, con questo disco tocco al fondo. Stasera io sicuro a casa non ci torno. Piacere a tutti, mi chiamo Luca Pinna. E vengo da una squalida città di Roma Briglia. Certo un po' diverso dal film di 8 miglia, però se ci impegniamo qui qualcosa ci assomiglia. E dimmi un po' anche nella tua città, ovviamente ci sono pazzi, chi spazi qua e là. E se c'è una cosa che giù proprio a me no, non va, è che ci siano fighetti nella nostra società. E un giorno m'hanno preso in 4, gli altri 6 stavano arrivando con il casco. Per ispirare avevo pure un limitato spazio. Ricordo chi mi aveva pure tirato uno schiaffo. E non dite facendo gli sbruffoni che non devo più mettere neanche i vostri nomi. E sulle mie canzoni se mi girano i coglioni o brutti buffoni vi metto anche cognomi. Per farmi stare zitto mi dovete ammazzare, però voglio regalo per il mio funerale. Quanta gente mi vorrebbe solo processare. Non odio mica i gay, ma chi vuole comandare? Se gente che parla, gente che sostiene, poi c'è il solito coglione che si fa vedere. Guarda sono figo e guarda sono forte, perché sono riuscito a massacrare quello di botte. E beh chi se ne fotte, stasera vai mignotte. Sono più figo io che questa gente vuole sfotte. Benvenuti nel mio viaggio ragazzi. Yeah. Ma quanta gente parla dietro e dopo non si sa. E benvenuti nel mio viaggio con la verità. Salite tutti in fila su questa mia gondola. E vieni con me, qui con me, qui con la doppia dose. Hey, questo è un viaggio di pazzia. Hey, vi scongiuro andate via. Hey, mi trasformo in qualche cosa, ho la mente che mi esplosa, non so che cosa sia. Piacere a tutti, sono Trenkin, vivo nella mente di Luca e adesso senti questo mondo infame per via delle vostre menti. Io sono il fantasma senza riconoscente. Ecco è arrivato il poeta maledetto. Io sono il verdetto, per questo parlo scheggia. Io sono il caronte di questo mio mondo. Vi porterò nel fondo, vi porterò nel fondo. L'industria discografica è andata a fare in culo. La gioventù di adesso ha lo stesso destino. Le ragazze parlano solo di Costantino, per cui dopo mi accusano di essere un cretino. Il mio problema è che sono proprio un porco. Prendo le ragazze e me le scopo in ogni posto. Invece a scuola sono proprio handicappato. Pure a scuola guida 2 volte mi hanno bocciato. E ora sono qui con il mio beatmaker. Il patto di sangue si gioca con il Joker. Zero le pretese, ecco l'italo inglese. Jamie James. My name is Jamie James, a.k.a. James Frolano. Ready to fuck up your life like Tony Soprano. E senti questa figa Tranky, c'ha proprio un mozzo strano. Minchia che schifo, questo mondo è cambiato. Doppia dose al nome, non vogliamo il vostro amore. E senti questa base come pompa nelle vene. Vi riempiremo il cuore nelle vostre sere nere. Cupe, marce, tetre nel tuo quartiere. Gente che poi pippa, e perché non mestiere? Cazzo dici, fanculo dei tuoi amici. E benvenuti a tutti in strade senza luci. Ma quanta gente parla dietro e dopo non si sa. E benvenuti nel mio viaggio con la verità. Salite tutti in fila su questa mia gondola. E vieni con me, qui con me, qui con la doppia dose. Ma quanta gente parla dietro e dopo non si sa. E benvenuti nel mio viaggio con la verità. Salite tutti in fila su questa mia gondola. E vieni con me, qui con me, qui con la doppia dose. Bella, bella Italia. Allora, io sono Trenkin e questa è Jenny James. E questo è il nostro primo viaggio, ragazzi. Finalmente dopo 4 anni è uscito sto cazzo di Jamie. Mamma mia, non uscirò più veramente. Mamma mia, Jamie, quanto cazzo ci abbiamo messo? 4 anni. Mamma mia. Vabbè, comunque ragazzi, seguiteci, ne sentirete davvero delle belle, ne vedrete delle belle. Al rap c'è sempre questo merdoso di Trenkin e alle basi sempre e comunque Jamie James. E adesso? Aspetta che aspetta, ricomincio. Ho perso la buona, leggo. Tutti sulla gondola! Le doppia dose! Grazie, grazie. Cazzo va a applaudire, sto andando a gondola, mica a fiera. Oh, che bello.